Italia in controluce. Buona giornata da Maria Piera Ceci. Che il fondo unico per lo spettacolo diminuisse anche quest'anno si sapeva già, ma il taglio è stato superiore alle attese, 20 milioni in meno anziché i 7 che ci si aspettava dunque. E il mondo dello spettacolo naturalmente insorge, o quantomeno è molto preoccupato. Devo dire che infatti la protesta è piuttosto sommessa, non si scende in piazza come è successo peraltro in passato, non si fanno manifestazioni eclatanti, almeno finora non ci sono state, ma comunque è a rischio, ci hanno detto le persone che abbiamo contattato e che sentiremo poi fra poco nel corso di questa puntata di Italia in Controluce. È a rischio la sopravvivenza di teatri, fondazioni liriche, e poi c'è il cinema, la danza, insomma un po' tutti i comparti. E io saluto il nostro primo ospite, Salvo Nastasi, capo di gabinetto del ministro della cultura Ornaghi. Buongiorno Nastasi. Eccola qua. Direttore generale dello spettacolo dal vivo, ma fa uguale, grazie. Va bene, grazie mille. Questo taglio che è arrivato naturalmente, insomma, poi ne parleremo fra un po', le farei già sentire la prima protesta, sì. Così ragioniamo anche su cose concreti. Le farei sentire la prima intervista che noi abbiamo raccolto, così la commentiamo insieme, in particolare a Walter Vergnano, sovrintendente del Teatro Regio di Torino, ex presidente della Fondazione Enti Lirici, lo conoscerà benissimo. Lo ha intervistato Valeria De Rosa. Noi avevamo avuto ampie garanzie e rassicurazioni sul fatto che il fondo unico era rimasto invariato, tant'è che tutti quanti noi abbiamo fatto i nostri bilanci preventivi del 2013, già così, già difficili di per sé, su un fondo unico che era quello pari al 2012. Io non credo che i teatri siano in grado di assorbire una riduzione di questa entità del fondo unico dello spettacolo. Non credo. Per quanto mi riguarda, il mio teatro che ha approvato l'altro ieri il bilancio preventivo del 2013, con questo taglio il bilancio del 2013 è sicuramente in passivo, sarebbe la prima volta. Poi venire a scoprire che dal fondo unico dello spettacolo sono state dirottate alcune risorse anche importanti, penso 1 milione all'Arena di Verona, 3 milioni all'Orchestra Verdi di Milano, 3 milioni ai Festival della Musica, e altro ancora per almeno 10 milioni, questo veramente mi fa stupore, perché sono risorse che vengono assegnate senza nessun parametro di riferimento. Io non ho nulla contro le istituzioni che vengono finanziate, ottime istituzioni, ma il percorso seguito per finanziarle ulteriormente è un percorso, come dire, di un modo di gestione del denaro pubblico, soprattutto sempre, ma quando è così decrescente, che è inaccettabile. Nastasi, le ha sentite le parole di Vergnano? Teatri non in grado di assorbire questi tagli, un Reggio in rosso per la prima volta nella storia? Beh, non posso che concordare con l'amico e collega Walter Vergnano, è evidente. Più il fondo unico per lo spettacolo cala e più la difficoltà poi si sente nella produzione, nella produttività, nella quantità dell'offerta al pubblico. Devo anche, ci tengo a dirlo, qui poi nel mondo dello spettacolo si tende sempre poi ad andare per voci. In realtà Vergnano ha citato degli esempi che non sono a carico del fondo unico per lo spettacolo, l'Orchestra Verdi, così come il contributo straordinario all'Arena di Verona, in realtà sono voci decise dal Parlamento su altre spese del Ministero, sì, non sul fondo unico. Quindi ecco, il problema quest'anno grave è stato che noi abbiamo scoperto appena 2 settimane fa c'è stato un taglio trasversale sui capitoli di parte corrente del Ministero, di cui appunto fa parte il fondo per lo spettacolo, per poco più di 10 milioni. Quindi insomma lei dice siamo anche noi vittime di questi tagli, tutto sommato. Siamo assolutamente vittime, anche perché voglio dire, non c'è cosa più bella che dire al direttore generale dello spettacolo dal vivo che eroga i fondi, che ci siano fondi di più. Ovviamente io non posso essere d'accordo, non posso che immedesimarmi ai miei colleghi, certo, sovrintendenti. Ecco, però che cosa gli diciamo? Perché sì, va bene, diciamo loro che hanno ragione, che devono stringere i denti, che questi tagli li avete subiti anche voi, però insomma è una risposta un po' debole. Che cosa possiamo... No, io scusi, non è una risposta debole. Intanto voglio dire una cosa. Il Fondo Unico per lo Spettacolo è intorno a 400 milioni di euro da 3 anni, nonostante tagli enormi sulla spesa della pubblica amministrazione e tagli sui capitoli del Ministero dei Beni Culturali enormi, come per tutti gli altri ministeri, perché ricordiamoci che cosa sono state le 3 manovre economiche del governo Monti l'anno scorso. Quindi già il fatto di essere riusciti a puntellare, almeno a mantenersi intorno a quella cifra, è stato un grandissimo successo, un successo voluto assolutamente dal ministro Ornaghi, perché si è reso perfettamente conto durante l'ultimo anno, questo è una cosa che noi funzionari abbiamo spiegato con estrema chiarezza, che anche un euro di meno sullo spettacolo, così come sulle istituzioni culturali, non sarebbe stato sopportato dal settore. Poi è arrivata questa brutta sorpresa nel mese di gennaio. In realtà il modo... Senta, ma questa sorpresa, questa lei la chiama sorpresa, insomma, tanto sorpresa non è... Ecco, insomma, d'altronde avete anche voi tentato una qualche pur debole protesta, voglio dire? Assolutamente sì, noi abbiamo fatto 2 cose. La prima, noi un pochino allargato, diciamo, il ministro ha fatto due cose. La prima, ha comunicato al Ministero dell'Economia l'anno scorso dove operare i tagli che ci sono stati richiesti e abbiamo chiesto che il flusso non fosse toccato. Ma quando purtroppo è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato, questa è una sentenza di dicembre, che ha annullato gli effetti di una manovra Tremonti, quindi di un governo precedente, sui tagli agli stipendi di alcuni dipendenti della pubblica amministrazione, lì c'era poco da fare, bisognava adeguarsi e basta. E gli unici fondi di parte corrente del Ministero dei Beni Culturali ha, purtroppo, sono i consumi intermedi, ma una cifra piccolissima, e il Fondo Unico per lo Spettacolo è ben più panciuto. Ecco perché il taglio è stato automatico su quel capitolo. Io però voglio dire una cosa, proprio per evitare che poi lei giustamente mi dica la risposta è debole, è troppo da funzionario. Un modo c'è per intervenire. Intanto il modo migliore è che il nuovo governo si insedi, che prenda il testo della sezione dello spettacolo, perché ormai tante volte abbiamo sentito promesse, noi abbiamo bisogno... mi scusi, però le promesse le fanno quelli che stanno al governo, quindi voi in questo caso, insomma, non è che si può scaricare sul governo nuovo. Per scaricare il governo, se io avessi il portafoglio e potessi fare un assegno al Fondo dello Spettacolo lo farei subito, mi creda. Purtroppo non è compito a funzionare lo Stato, il problema è un altro. Noi a luglio, come tutti i ministeri, dobbiamo assestare il nostro bilancio, si chiama manovra di assestamento di bilancio, e lì infatti il ministro Ornaghi ieri, durante la consulta dello spettacolo, ha indicato la possibilità per chi verrà dopo di lui di operare, di restituire, se non tutto, almeno in parte, questo taglio di 20 milioni. In realtà il taglio è meno di 20 milioni, perché già noi ci eravamo attestati su poco più di 400, siamo a 390, quindi basterebbe almeno per riportarci sulla cifra dell'anno scorso poco più di 10 milioni di euro. Ma questo è un palliativo, perché ovviamente... Cioè, ci sono speranze di recuperare in parte questi soldi? Sì, assolutamente sì, anche se non basta, non è che noi recuperiamo 10 milioni di euro e risolviamo il fondo per lo spettacolo. È una mezza promessa? Non lo posso promettere io, perché lo decide il ministro. Certo. Io posso suggerire lo strumento tecnico, l'assistente di bilancio, poi la scelta politica la fa il ministro che verrà. Quindi il modo, se la domanda è, c'è un modo per recuperare questi soldi persi improvvisamente inizio anno? La risposta è sì, tecnicamente si può fare. Chi lo decide? Lo deciderà il nuovo ministro della cultura dopo le elezioni, quando si inserirà, e secondo me, da funzionario, da operatore, come direttore generale dello spettacolo dal vivo, non basta, cioè bisogna fare l'assestamento per restituire i soldi di quest'anno, ma bisogna fare poi una manovra più incisiva con la finanziaria dell'anno prossimo. Nastasi, le faccio sentire un'altra voce, questa volta Alberto Francesconi del comitato di reggenza dell'AGIS, l'ho intervistato Valeria De Rosa, perché insomma anche il cinema piange. La storia si ripete e, come al solito, diciamo, lo spettacolo è una di quelle attività che vengono sempre penalizzate nel momento in cui si debbono tagliare delle spese. È chiaro che noi viviamo in questo paese e quindi ci rendiamo conto delle difficoltà che l'Italia sta attraversando, dei sacrifici che sono stati chiesti agli italiani, e quindi i tagli che sono stati fatti, almeno quelli che erano annunciati, erano stati in qualche modo assorbiti. Nell'andare a vedere la ripartizione del Fondo Unico dello Spettacolo, ho visto che sono stati penalizzati circo e spettacoli viaggianti, che già hanno una considerazione bassissima. Per quanto riguarda le altre attività, il cinema in particolare, l'esercizio teatrale, i teatri stabili pubblici, privati eccetera, in un momento in cui è palese una crisi strisciante, che è dovuta in parte al fatto che la crisi generale economica ha allontanato un po' di pubblico dalle sale, dall'altra parte c'è anche una crisi produttiva, questo si potrebbe o si potrà riverberare in maniera negativa nel futuro del cinema italiano. Le nostre quote stanno scendendo vistosamente, però è un peccato, perché insomma il cinema italiano ha delle potenzialità enormi, soprattutto laddove il Ministero e lo Stato dovessero investire in ricerca di nuovi talenti. Ecco, Anastasia, ha sentito anche le parole di Francesconi, insomma il nostro cinema di tutto aveva bisogno in questo momento che di ulteriori tagli. Sì, anche se Francesconi evita di dire che la differenza tra cinema e spettacolo dal vivo è enorme, mentre lo spettacolo dal vivo si lamenta e fa bene, alza la voce e deve gridare in perenne, diciamo durante tutto l'anno, il cinema comunque durante il 2012 ha avuto due provvedimenti molto importanti. Il primo è il decreto quote, che è stato firmato dai ministri Passa e Ornaghi appena un mese fa, è il decreto con cui si stabilizzano le quote di investimento di Rai, Mediaset e Sky a favore del cinema italiano. Assolutamente, che sì. Si aspettava da sei mesi, e questa è veramente un toccasana in generale per le finanze del cinema. E l'altro provvedimento, che scade alla fine del 2013 e che poi il prossimo governo dovrà, penso che non ci sia un problema, rinnovare, è quello del tax credit sul cinema, e quindi la possibilità di avere grosse agevolazioni fiscali per i privati che investono sul cinema. Quindi già fossi in Francesconi mi lamenterei più per lo certo. spettacolo per il cinema. Voglio aggiungere, perché lo e io invece le faccio l'ultima domanda perché devo chiudere in una battuta, mi dica sinceramente quanto vi siete arrabbiati anche voi al Ministero quando avete saputo di questa cifra. Moltissimo, perché la legge di stabilità è stata approvata gli ultimi giorni dell'anno in quelle condizioni anche abbastanza confuse, perché era un momento di crisi politica enorme, quindi non è stato facile governare da parte del Ministero dei Beni Culturali. E poi gli effetti della sentenza della Corte praticamente li abbiamo scoperti il 20 gennaio con la consulta dello spettacolo. Un po' una specie di blitz è stato questo nei vostri confronti. Certo, non è solo nei nostri confronti, perché il taglio è stato trasversale su tutte le amministrazioni pubbliche. Ovviamente per noi si è sentito di più, perché fino a ottobre-novembre negli incontri con gli operatori io stesso ci ho messo la faccia, ho detto il flusso rimarrà stabile. E le ha fatto fare un po' una brutta figura. Non è stata una bella sorpresa, sarò io il primo che si batterà con uomini grazie. Per sostenerlo. Grazie mille, grazie a Salvo Nastasi, grazie a Valeria De Rosa per aver realizzato le interviste e grazie alla collaborazione ad Adriana Fracchi e Marta Cagnola. Un saluto da Maria Piera Ceci.